Toc Toc, que é o Taylor Papa. Taylor Motherfucking Flash. E Papa e Paki. Rima no cui con i miei dardi. Faccio assurdi. Pensieri su. Suicidi tutti. Rimango qui muti, tutti. Voglio dirvi una cosa, quelli come me muoiono in sposa la morte. Vi ricorderò il gioco, vi ricorderò forte dentro di me quando aprirò le mie porte della percezione. Voglio avere una mega visione, una mega visione. Aprirò le porte della percezione. Voglio avere una mega visione, mega visione. Vi ricorderò tutti, belli brutti, fatti, strafatti e anche posati insieme, cattivi. Tentazioni oniriche vivi. E quando cerchi la morte invece cerchi qualcosa che non siamo alieni. Non siamo alieni, ma noi siamo anche alieni. Alieno, arme vieni meno scemo. Ricordati che quando senti un mio pezzo devi inchinarti. Sarà ma dall'aldilà sono il formidabile a svegliarti, darti un'opportunità per capirti, darti un'ottica per guardarti. Sembro il tuo medico, uno, due, tre, siero della verità e anestetico. Rimango qua eretico, il più vero, rimango un mistero. Come cazzo faccio ad andare in questa maniera? E tutti quelli della cristianità ci vogliono morti, chissà perché.